Quando discende la notte sui tetti sperduti di periferia, tra qualche prato tenace, due fossi e una strada di periferia, ti puoi permettere di passeggiare, di respirare quel filo d'aria che viene dal povero prato sfinito, dalla sua lotta contro l'asfalto, ed ascoltare, se ancora ci riesci, vecchi grilli dimenticati, e puoi scordarti che a 100 passi ci sono le luci e corrono i tram. Discende la notte sui tetti sperduti qui in periferia, ti puoi illudere ancora d'avere una strada ed un prato per te. Scende la notte sui tetti sperduti di periferia, tra qualche prato tenace, due fossi e una strada di periferia, ti puoi permettere di passeggiare, di respirare quel filo d'aria che viene dal povero prato sfinito, dalla sua lotta contro l'asfalto, ed ascoltare, se ancora ci riesci, i vecchi grilli dimenticati, e puoi scordarti che a 100 passi ci sono le luci e corrono i treni.